cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi. Quanto mi dà fastidio quando vogliono sapere tutto, se ho la tipa figa o se mi fra fanno brutto. Non sono cazzi tuoi quello che mi passa per la testa, con chi mi frequento o dove vado in palestra. Non insistere perché così mi costringe a mentire, se non rispondo subito è perché non te lo voglio dire. Non offro sigarette, non considerarlo un dispetto. Non sono cazzi tuoi quante sigarette ho nel pacchetto. Cazzo te ne frega dove vado, come mi svago, perché mi chiamano drago, poco ci manca che vuoi sapere pure quando cado. Si fa i cazzi suoi, è sempre migliore del gruppo, e a farci caso è quello che vive più a lungo. Chi non si fa i cazzi suoi ne racconta una di troppo. Non è un caso se il giorno dopo torna a casa zoppo. Io mi distingo da quei coglioni, se non sono il protagonista non faccio mai i nomi. Non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi. Ci fermate alle dogane, infami e puttane, volete le nostre eredità di origini indiane. Cazzo te ne frega se penso ancora a Vale, questi non sono cazzi tuoi, vero? Giocare. Cazzo te ne frega di quello che ho, non ho in giardino. Fai così tante domande che a volte mi sembri un pinguino. Fatti i cazzi tuoi e abbassa la cresta, prima che ti procuro veramente la fiamma in testa. Io sto al rap come a Napoli la pizza, un cartone o un rave, la figa è bizza. Disprezzo chi non si fa i cazzi propri e preferisce l'amore all'amicizia. Giocate come ratti nelle tane, porto rime più underground delle metropolitane. Non sono cazzi tuoi se bevo e cosa mischio, critica pure intanto ti stai ascoltando il mio disco. Non sono cazzi tuoi se bevo e cosa mischio, critica pure intanto ti stai ascoltando il mio disco. Non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi. Cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi. Non sono cazzi tuoi, se vuoi qualcosa mi fio. Critica pure, tanto ti stai ascoltando il mio disco. Non sono cazzi tuoi, se vuoi qualcosa mi fio. Critica pure, tanto ti stai ascoltando il mio disco. Non sono cazzi tuoi, se vuoi qualcosa mi fio. Critica pure, tanto ti stai ascoltando il mio disco. Non sono cazzi tuoi, se vuoi qualcosa mi fio. Critica pure, tanto ti stai ascoltando il mio disco.